Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Milan, ci hai rotto i coglioni con questa storia che delle ore di sonno, 5 ore, 3 ore, 4 ore, e tutte le settimane sempre sta rotto i coglioni. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. Apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. 'Cause I'm a sad, sad post-teen, could have been a love machine. No gene, concrete, walking like a zombie, like a zombie. Il Partito Democratico conta 300 parlamentari. Colleghi! Colleghi, colleghi! Allora, Presidente. Colleghi, per favore, ripristiniamo delle condizioni adeguate. Voi avete tradito le aspettative dei vostri elettori, voi avete tradito il vostro blog, avete tradito le promesse che avete fatto a chi avete detto che questa legge elettorale la votavate. Voi non sapete scegliere, voi avete paura di decidere, voi avete paura di scegliere, e questo è il motivo per cui la legge elettorale è fallita. Rosato, che ha condotto molto bene i lavori in commissione, l'ho visto molto arrabbiato e lo capisco. Probabilmente Toninelli gli aveva detto stai sereno, ti aveva detto stai sereno. E allora se ti ha detto stai sereno, lo sai che a volte uno può sentirlo e poi avere la necessità di cambiare idea. Deputato Romano, la richiamo all'ordine, la espello dall'aula. Esca da quest'aula, lei non può esprimersi così. Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Questa responsabilità ve la assumerete nei confronti degli italiani e del Presidente della Repubblica. È vostra! Voi non siete in grado di tenere il partito! Noi abbiamo detto che votavamo a favore e lo abbiamo fatto! Dovreste vergognare. Ah, ragazzi, e adesso si scannino sulle colpe. Vabbè, ma notate come fino a questa mattina io non abbia detto una mezza parola sui social, neanche un quarto di parola su questa farsa ennesima legata alla legge elettorale. Si chiude oggi la 25esima settimana decisiva per la riforma della legge. No. Il Porcellum, il Consultellum, l'Italicum, il Mattarellum. Ma possiamo immaginare che un cristiano normale che si alza la mattina per andare a lavorare possa seguire il mondo politico italiano in queste avventure letterarie? Caro Presidente De Luca, io quasi quasi proprio mi alzo e me ne vado in questo momento e ti faccio condurre nella versione 4.0 direttamente da te. Perché? Ma cosa dobbiamo raccontare dell'ennesimo psicodramma? Ah, forse non si vota più. Ma non è detto, vediamo, adesso vediamo, forse si vota, forse non si vota. Forse si vota, si rivoterà con la legge elettorale nuova, vecchia, non si sa. Si sa che a Padova ci sono 17 gradi ed è sereno, caro Daniele, grazie per questa segnalazione. Mentre a San Zenone degli Ezzelini, Lorenzo scusami un attimo, San Zenone degli Ezzelini, ci sono 18 gradi. A A Modena 5 gradi col sole, San Zenone degli Ezzelini, Treviso. Grazie. Bene, noi siamo precisi e controlliamo, A Controguerra, Lorenzo, scusami. Controguerra, 15 gradi e sole terzo, pare in provincia di Teramo. Non ti. Controguerra. Allora, attenzione, sei lì con Paolo Corleone in regia a parlare di cose da mettere in onda. Che quisquilie. Su, Controguerra. Grazie. Teramo, confermi. Bene, ottimo. A Gardone, Viterbo, 13 gradi, ci saluta Piero in questo momento, mentre a Bellaria, Igea, Marina, ci sono 13 gradi e sereno, saluti da Marco l'ambulanziere. Evviva! Io Maria, sono Anacleto, fammi pigliare per il culo da te e della Veronia, cioè noi toscani e ci si imbua con quel titolo. Lo sai a Firenze quando la Fiorentina gioca male, come diano? Fate ridere, fate ridere, fate ridere. E te da Veronia, e siete uguali. Così non va, Veronica. Allora c'è la nostra Veronica Gentili. Buongiorno Veronica. Che abbiamo fatto per far arrabbiare Anacleto? Ma che Anacleto? Ne so, per Anacleto basta esistere noi due per farla arrabbiare. Porca miseria. No, è che non siamo andati alla festa e non abbiamo neanche portato. Forse è andato Chicco Testa, non lo so. Chicco, secondo me sì, non eravamo Chicco, la famosa festa di Anacleto. Dovevamo andare tutti quanti. Chicco chi Testa. Chi è Anacleto? Ma no, dai, ma ci va. Ricordo, sì, Veronica. Aspettavo una tua telefonata io, cazzo. Hai ragione, Chicco. Ma è stata colpa di Alessandro che mi ha detto sì, della sciocchina. Sembriamo il PD e il 5 Stelle che si rinfacciano la legge elettorale. Ma andate al diavolo. Stiamo facendo in provetta quello che è successo ieri, capito? Siete voi. Capito. E qui sugli equivoci poi si casca. Comunque a Salò ci sono 17 gradi. A Salò. Io sono a Salò, volevo chiamarvi giornata terza, il lago è calmo. Tutto bene. Tutto bene. 17 gradi a Salò. E cosa fai? Sei a ricostituire la Repubblica? No, per carità. Non si pensano nemmeno certe cose. Non è che non si dicono, non si pensano nemmeno. Allora, siamo con Chicco Testa e Veronica Gentili ad affrontare questa serena giornata, non di sole, ma al Parlamento. Ieri lo psicodramma. Vabbè, insomma, comunque non siamo andati alla festa di Anacleto, apri il Parlamento, tutti qua hanno dato buco. Ognuno rimpalla la responsabilità sull'altro. Ieri Renzi e Berlusconi si sono sentiti al telefono, racconta il Corriere, Veronica, come due vecchi amanti che non possono parlando, farmi sentire, non farti sentire da Gianni Letta che sono al telefono, Matteo con te, Matteuccio, che succede? Pare che Matteo Renzi gli abbia detto: non controllo più neanche i miei. Però in realtà adesso per il PD è colpa del Movimento 5 Stelle. Per il Movimento 5 Stelle è colpa del PD. Per Berlusconi è colpa della Biancofiore. Per la Biancofiore è colpa del PD. Non lo so. Vabbè, adesso c'è il momento del rimpallo delle responsabilità, perché dopo aver detto in serie per giorni che questa legge elettorale la approvavano, ma tutti dicevano non è la mia legge elettorale, no? Sì. Perché ognuno ne avrebbe voluta un'altra, adesso la legge elettorale non è passata per una serie di ragioni, tra cui sicuramente il motivo principale è stato quello che il Movimento 5 Stelle in corsa ha capito che questa legge aveva troppe falle e che dal punto di vista dell'opinione pubblica per loro sarebbe stata devastante. Perché il problema del voto disgiunto e delle preferenze nella percezione collettiva per un gruppo come loro, che sulla battaglia dei nominati in Parlamento ne ha fatto veramente uno dei punti principali del loro modo di essere, hanno detto ok, è più importante la coerenza a questi principi, anche capendo quello che insomma le critiche che hanno ricevuto anche dalle persone a loro meno ostili, e quindi hanno detto no, sì, su questo non allora, tutto tra l'altro viene impallinato su un, capisci Chicco, su un emendamento che riguarda il Trentino Alto Adige portato avanti da Biancofiore, per il quale Forza Italia aveva detto votate contro e invece è passato, e la Biancofiore, che è dello stesso partito, non si sente però in colpa con Berlusconi perché lei dice io devo fare il bene della mia terra e quindi Berlusconi capirà. Sai, poteva capitare lì, poteva capitare su qualsiasi altra cosa, questo, no? È vero, questo è vero. Gentili ha detto una cosa vera, però vorrei chiedere a Gentili una cosa, ma allora tutta questa democrazia 5 Stelle, piattaforma Rousseau, eccetera, eccetera, a che diavolo serve? Guarda, secondo me loro hanno messo fatto in votazione la cosa tra gli iscritti. no? Certo. E gli iscritti all'80% hanno detto di sì. Sì. No? Però loro hanno fatto come un errore. Se capita, Grillo ha avuto sì, Grillo ha cambiato un po' di idea. No, loro però hanno fatto un errore, perché loro hanno messo in votazione la cosa prima che ci fosse il maxi emendamento di Fiano. Quindi sì, quando in maniera ancora molto approssimativa si parlava di proporzionale, capito, punto. Però cambia molto, sai, cioè... Se fai una cosa che poi vabbè, diventa... ma che capite poi... che c'è, però la questione è che poi è vedi... Io lo so che a te della legge elettorale non ti importa niente, ma non è questa, ma io te la devo spiegare. Lei sciocchina. No, ma non è che non importa, importa il fatto in sé, cioè che avevano detto in 448 senza neanche vedersi l'accordo, ecco, è fatto nel giro di una settimana per motivi che poi ognuno rinfaccerà all'altro, l'accordo è saltato. Questo è il dato. Ma secondo me il discorso scusami, vai. No, Veronica. No, ma prego. Vai tu. No, volevo cercare di allargare un pochino il discorso, perché questa discussione, perché sono successe altre due cose molto importanti per ieri e nella notte. Primo, che la May pare che non abbia la maggioranza parlamentare in Inghilterra, no? Che due, la testimonianza molto dura del capo dell'ex capo dell'FBI contro Trump, che ha detto Trump è un bugiardo. Fondamentalmente, insomma, adesso nel senso che voglio parlarne, non voglio deviare il discorso. Ma no, parliamo. No, sai, sono i due paesi di cultura anglosassone, no? Quelli che in un certo modo sono il fondamento della nostra democrazia moderna, dell'atlantismo, eccetera, eccetera, che stanno entrando in un cono d'ombra e di isolamento veramente preoccupante. Dici, e noi siamo qui a ombelicalmente, mi piace questo avverbio, parlare della legge elettorale. No? No, e poi paradossalmente l'Europa in questo momento è il continente che dal punto di vista economico sta meglio, capisci? Ed è quello più aperto. Cioè, in pochi mesi c'è stato un rovesciamento di posizioni molto forte, e però purtroppo noi corriamo il rischio, per i motivi che stiamo discutendo adesso, quindi torno alla legge elettorale, di essere spettatori anziché riuscire ad agganciare in un qualche modo questa situazione che si presenta, ripeto, molto favorevole per però Chicco, l'unica cosa che ti posso dire è che rispetto alla Gran Bretagna la May paradossalmente era ancora più ostile all'Europa tutto, in quanto tale. Sì, lo so, difatti c'è una grandissima... Adesso hanno un grandissimo problema perché come faranno a gestire la Brexit o chi lo sa, senza maggioranza. Infatti lei l'ha fatto sperando di rafforzarsi e poterlo fare in maniera più autoritaria senza avere tutte le opposizioni del caso, invece si ritrova scommessa con dei laburisti che sono molto più forti e lei che è molto indebolita. Infatti ha perso la scommessa, come chi dice che ne so, se perdo a questa votazione non farò più politica, succede. Uno a caso dice. No, ma non lo so, sono cose che si dicono, ma poi non è che uno adesso la May. Oh, ma senti, a proposito, ma è vero che vai passi di grado, vai a dirigere un programma importante, a condurre, ho letto delle cose, intanto io ho già condotto alle 9 nel 2008, sì. E poi non lo so, io vorrei fare tante cose, guarda, volendo... Ma dacci una conferma, ma dai. Che ne so, ma io il mio sogno è fare un programma con Veronica Gentili, figurati, quindi c'è, cioè, ognuno proprio ha degli incubi. Quindi... posso fare l'ospite? Guarda, se facessimo un programma io e Milan, tu saresti tutti i giorni da noi, guarda, ti chiameremo tutti i giorni su tutti gli argomenti. Senti, ma invece, anch'io ho delle curiosità molto profonde, tipo, sì, come si sta dopo Juve Real Madrid, per esempio, Chicco Testa? Cioè, per esempio, anche questa è una cosa che non abbiamo mai approfondito. A cosa ti riferisci? C'è stata una partita di calcio? Ha giocato la Juve Real Madrid? Non lo so. Okay, guarda, noi per fortuna abbiamo una grande esperta di calcio qui, Veronica Gentili, ci può dire tutto. Dai, Veronica, allora, questa dovresti saperla. C'è stata l'altro giorno, spiegarmelo, ma me li sono pure dimenticata. La Juve ha perso, questo me l'ha portato. Questo è già un titolo su nove colonne. Non te lo volevo dire proprio io, Chicco, che ancora non so bene perché mi dai queste notizie, Veronica? Hai ragione, scusami. Poi te lo dico con questa immagine. Ha perso, ma con chi? E che cosa? Cioè, perché non si è capito. A poker, sì, va bene, a poker. No, vabbè, mi dite almeno, tornando sulla questione, allora, si vota o no? Gli italiani l'unica cosa che vogliono sapere sono binari nel pensiero quando affrontano queste cose, ma si vota in autunno o no? Rischiamo che non si voti in autunno, perché il decreto legge, secondo me, Mattarella non glielo fa fare. Rischiamo quindi, che non si voti, quindi non si vota, non si vota. Tu, Chicco, cosa dici? Si vota, non si vota? Ma non lo so, 50-50, perché quello che dice la Gentili è ragionevole, però dall'altra parte, sai, questa cosa avrà delle conseguenze molto grosse, cioè non capisco onestamente come questo Parlamento possa continuare ad andare avanti. C'è una legge finanziaria da fare che inevitabilmente corre il rischio di diventare va avanti legge. Come è andato avanti fino adesso, fino ad aprile, no, sì, ma cioè... fino adesso c'era una maggioranza Milan, adesso è tutto. E no, perché da una parte c'è Bersani e compagnia varia, dall'altra c'è Alfano con mal di pancia, capito? Ma Alfano si è ritranquillizzato. Chi la fa una legge di stabilità dove bisognerà correggere i conti di 10, 15, 20 miliardi, no? E sapendo che dopo 3 mesi si va a votare e quindi qualsiasi cosa fai di sbagliato ti tornerà indietro con gli interessi, capito? Quindi però per votare bisogna avere un percorso parlamentare. Tecnicamente bisogna andare a votare a settembre, perché bisogna fare la modifica della legge elettorale per uniformare Camera e Senato. Esatto. Parla di corsa. E poi trovare un classico incidente parlamentare. Il fatto è che in realtà si pensava questo, che l'incidente parlamentare che c'è stato ieri, quindi la legge elettorale, fosse la motivazione per andare immediatamente per far finire la legislatura, dicendo questo Parlamento ormai non è più in grado di fare nulla. Nel momento in cui però il decreto legge, l'idea di fare un decreto legge sulla legge elettorale non va bene al Presidente della Repubblica, questo giochetto non funziona più, e quindi comunque una legge loro la devono portare a casa. Io ho capito, ma anche il Presidente della Repubblica c'ha delle belle pretese, con tutto il rispetto per Mattarella, perché sai, se non si riesce a fare questa legge elettorale non si riesce a fare. Però lui dice allora si vada a scadenza naturale. Che legge elettorale facciamo? Non ho mica capito. Ma mettiamoci noi qua, io, te, Veronica e Anacleto, così facciamo la cosa. Secondo me con un tratto di cervelli come questo ne veniamo fuori in tempo brevissimo. In quattro facciamo l'accordo a quattro, come hanno fatto, e lo facciamo noi e troviamo comunque tu quest'estate dovresti fare invitarci a una festa per festeggiare questa promozione che hai avuto. Sarà un festone così sostituiamo la festa di Anacleto, no? Esatto, secondo me aspetti che ti promuovano e poi dopo facciamo un invito ad Anacleto ufficiale, lo mandiamo anche a prendere. Vi ricordo che vado in onda nella fascia di massimissimo ascolto, mi piace massimissimo. Adesso si sente anche un po' ferito sul suo programma attuale. No, che tu sei nonostante la presenza di Veronica Gentili. No, devo andare tu un attimo al traffico. Punta di diamante. Devo andare al traffico, state con noi. Non so se votare sì o votare no. Fammi pensare, Mila, mandami il traffico per favore, traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Mattino. Milan, sei costretto a parlare di legge elettorale. Puoi far finta che ci sia altro di cui parlare, ma c'è solo quello, la legge elettorale. A Milan, la mattina, invece di dare ste temperature inutili, perché non dai la lista degli inquisiti nei vari collegi? Yo! Noi non possiamo vincere col 40%, tutti mi dicono non arriverete al 40%, lo so, se noi non arriviamo al 50% per me è una sconfitta, metà italiani devono votarci! Vabbè dai, solo metà. Oh mamma mia, questa cosa della lista degli inquisiti, so che a Chicco Testa piacerebbe tantissimo. Cioè, è un po' Berlusconi ha detto nella telefonata a Renzi: pare, temo un governo dei PM con Premier Davigo. Effettivamente è uno scenario, te lo vedi un po', Premier Davigo. Chicco, che fai? Posso evitare commenti di ogni genere. Certo che puoi evitare. Ho avuto un attimo di sconforto, quindi mi devo riprendere. Quando stai lì a Salò, Cioè, se c'è, se c'è, se c'è, no, se c'è, allora, aperta, vedo se, il lago, se c'è il governo da Vigo, secondo me Chicco Testa, la battuta infelice che ho fatto sulla Repubblica, la battuta infelice sulla Repubblica, e di puoi Salò. Rifondare lì la Repubblica a Salò. Rimango, dice, rimango qui a Salò e mi faccio una piccola repubblichina, una Repubblica tutta mia, come direbbe l'amico Razzi. Se c'è il premier da Vigo, se c'è il premier grande, una Repubblica grande come una camera d'albergo, mi basta, esatto. No, va bene, allora. Adesso in Gran Bretagna affronteremo la questione anche più avanti, perché la situazione è effettivamente è grama per la May. Si è votato, votazioni che ricordate ha chiesto Theresa May dicendo ci vuole un governo forte, quindi ho chiesto di andare alle elezioni anticipate. E vabbè, la scommessa al momento pare abbastanza da persa. Un lato le si rende merito del coraggio di aver detto appunto andiamo a votare, però, perché molte, però poi se riesci a perdere il 20% di punti di vantaggio, perché di questo si tratta, in un mese e mezzo più o meno, insomma, è qualcosa di perso. Su questo però bene, forse ha inciso, perché è una cosa, sapete che ne se ne parla due giorni e poi no, ma quanto ha inciso, Chicco, secondo te, il terrorismo, la paura, oppure sono inglesi e quindi abituati, ricordiamo il terrorismo anche sull'Irlanda, l'hanno affrontato, o invece secondo te sono discorsi che incidono nelle urne? Puoi pensare, però non è che questo, diciamo, il competitor della May fosse, che ne so, più duro, meno duro, eccetera eccetera. A me sembra che l'Inghilterra si trovi in un momento veramente in uno stato confusionale piuttosto spinto. Hanno votato il referendum per la Brexit, non sanno come farlo, probabilmente c'è una parte dell'elettorato che ha anche sentito, c'è una divisione molto forte tra le città e la campagna, no? E tutto questo determina una situazione, cioè se la Brexit, se l'America ha chiesto il voto per fare una Brexit dura, la risposta è stata la Brexit dura, non ma anche perché sulla Brexit si è capito che molti si sono pentiti di aver votato così, forse anche in Gran Bretagna, Forse anche in Gran Bretagna, capisci? Quindi è più la, mi pare questo voto più il risultato di questa confusione, cioè di una non chiarezza di idee sul futuro dell'Inghilterra che di altri fattori. Se no il terrorismo avrebbe premiato un partito di ultradestra esatto, ma secondo me infatti questo è uno dei dati più interessanti. Ma hai visto UKIP zero, UKIP un disastro, cioè quelli della Brexit hanno puoi evitare di interrompermi mentre parlo? Sì, no, ma prego, fai pure tutto. No, ti ringrazio, così poi per dire cose totalmente irrilevanti. Ma aspetta che ti interrompe, perché sei una donna, lo so. Ma guarda, oggi Chicco è venuto con lo spirito di distruggere. Oggi è battagliero, ha deciso di farti a pezzettini. Si vede che ha qualche sassolino nella scarpa. Io sto solo due sciocchina, considera quanto mi sono mossa con passione. No, si vede che non lo so, gli è rimasta di traverso qualche cosa di recente. No, niente. Ci vediamo a Ponza a proposito, Milan. Non lo so se ci vediamo a Ponza quest'anno. Vabbè, Veronica, comunque. Gli do il permesso. Ecco, esatto. Veronica, guarda, qua mancano 30 secondi. Anche me quest'anno, preparatevi ragazzi. Al premio letterario. Potreste, quindi preparate. Vabbè, allora anche Anacleto a Ponza e facciamo questa reunion. No, adesso il giudizio sulla Gran Bretagna te lo tieni lì, perché abbiamo chiuso, va bene Veronica, mancano 10 secondi. Allora, no, forza interrompermi. Davvero, vabbè, mancano 10 secondi. No, però Chicco, ma eri a Cardiff o no? Questo ce lo puoi dire, sei andato a Cardiff? Cardiff? Dove sta Cardiff? Dai, sei andato o no a vederla? Non sono andato. Ma dai, ma secondo me eri lì in prima fila. No, non sono andato. Non sei andato, vabbè, non è andato a Cardiff. Scusa, ma questa di Cardiff è una domanda sempre sul voto in Gran Bretagna, no? Sì, no, vabbè, lascia stare, c'è stata una finale di Champions, c'è stato il quadruplete, lascia perdere, dai, Veronica, lascia stare. Eri riuscito a spiegarmi il triplete, io mi sono questo è stato un quadruplete, dai, ti ringrazio. Vi devo salutare, Veronica Gentili, Chicco Testa. Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Abbigliamento di Alino. Togone da magistrato. Parruccone ricavato da lana da materasso. E bilancia due piatti per un'equa lettura dei giornali. 24 mattino. Ci siamo signore, le 7:20 minuti, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Oggi c'è Paolo Corleone in regia, manco l'ho detto.